calling you back. Ooh, she's been a bitch tonight. And by bitch, I mean this rain. No cab, nowhere. So I had to put on the wigs and the heels and the lashes and the hair and take the train to the club. And you know the MTA should stand for motherfuckers touching my ass. So then I get to the club, looking like a drowned, harassed rat, and am greeted, not by Miss Rose at the door, but our friend, Johnny 5-0. Yes, honey, the NYPD shut down the party. So no fee for me. I don't even know what's the key. So I hope you're up, girl, because we are all coming over. Lock the doors, lower the blinds, fire up the smoke machine, and put on your heels. Because I know exactly what we need. Let's have a kiki. I want to have a kiki. Lock the doors. Right. Let's have a kiki. Motherfucker. I'm going to let you have it. Let's have a kiki. I want to have a kiki. Dive, turn, work. Let's have a kiki. We are going to serve. And work. And turn. And honey. For calming all your nerves, we're spilling tea and dishing just desserts one may deserve. And though the sun is rising, few may choose to leave. So shade that lid and we'll all bid adieu to your ennui. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the doors. Right. Let's have a kiki. Motherfucker. I'm gonna let you have it. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Die. Turn. Work. Let's have a kiki. We are gonna serve. And work. And turn. And honey. Kiki. Ciao. This Kiki is marvelous. Quick girl. Very delicious. Ew. You know, girl, we were sitting back here and just having a Kiki. Molto contenta quando escono i miei brani, però oggi è un po' diverso perché questa canzone avrei preferito non scriverla. Però sono molto contenta di poter condividere davanti a voi che mi ascolterete queste parole. Grazie. Un'altra nottata nell'ansia perché c'è uno stronzo che gira per strada. Un altro lo incontri alla luce del sole in mattinata. Molte volte anche tra le persone mentre ti molesta e la gente guarda. E nei casi peggiori lo stronzo lo vedi girare ogni giorno per casa. Come si fa, se parlarne non basta? Quando il dolore ti fa scordare il motivo per cui provi rabbia. Dimmi dove si va quando finisce la strada. Quando ti spingi a guardare lontano da un luogo e non vedi al di là. Se ripenso ai tempi del Covid mi chiedo come cazzo ce l'hanno fatta. Devi stare in famiglia, ma cosa succede quando la famiglia è sbagliata? Un altro giudizio di troppo, ma quali problemi? Fatti una risata. Erano solo dei complimenti, dai, divertiti e stai calma. Quelli che chiami pareri, in verità, sono preconcetti. È per colpa di questi che dei problemi nessuno ne parla. Forse non sai come si sta quando qualcuno mette in discussione la tua sensibilità. Siamo nati nel margine e non è facile vivere qua. Non è facile scrivere in mezzo alla linea sottile che unendo due pagine le divida a metà. Tanto lo so che prima o poi la fragilità diventerà il mio punto di forza perché mi porta a mettere a nudo davanti alla gente la parte nascosta. Con il tempo mi farò le ossa e le mostrerò senza vergogna. È da una vita che ancora continuo a sperare che esca la verità. Quanto fa male quando qualcuno mette in discussione la tua sensibilità. Quando il confine... Ehi. Quando il confine diventa minaccia, tu dove vai? Il punto di arrivo diventa lontano se avanzi con un equilibrio precario, ma io vado piano verso l'obiettivo e scelgo la stabilità.

Vogliamo che le vie della nostra città non siano dedicate alla morte, al razzismo, agli abusi, ma alla bellezza di una trasformazione, alla creazione di qualcosa di nuovo e rivoluzionario. Per questo, insieme alle compagne di Guerriglia Odonomastica, come non una di meno, rinominiamo il nome di questa piazza nella quale ci troviamo in questa giornata. In piazza l'8 marzo, rivoluzione transfemminista, perché il cambiamento parte anche dal nominare, perché nominare è riconoscerci e perché le città sono sempre pensate a misura di uomo, bianco, ricco e abile, e mai a misura di una realtà che è plurale, fatta di persone di diverse provenienze, culture, generi, classi, disabilità. Ecco perché rinominare è un gesto di rivoluzione contro un mondo che ci uccide e che ci vuole silenziosi e obbedienti. Ecco a voi piazza l'8 marzo! Ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. Prova, prova. Ciao. Sono qui a parlare per il tavolo salute di una di meno di Milano. Vogliamo dire che l'8 marzo noi scendiamo in piazza perché pretendiamo una salute che sia transfemminista, che garantisca sempre autonomia e libertà di scelta. Pretendiamo la garanzia del diritto all'aborto, che sia veramente un diritto per tutto, che sia accessibile in tempi brevi, senza tutta la burocrazia, senza obiezione di coscienza, che sia sicuro e che diventi un diritto inattaccabile. Non accettiamo le mozioni presentate dalla Lega e approvate in Regione proprio in questi giorni sul supporto ai centri di aiuto alla vita, perché a detta loro il feto ha diritto di nascere, mentre l'aborto non è né libero né sicuro né accessibile per tutto. Pretendiamo la fuoriuscita dalla violenza nelle strutture sanitarie. Non vogliamo più ospedali e luoghi di cura in cui aver paura di accedere, sia come paziente che come lavoratore. Vogliamo luoghi di cura transfemministi, liberi dal sessismo, dalla violenza, dal paternalismo. Vogliamo sportelli transfemministi in ogni ospedale a cui poterci rivolgere. Pretendiamo la tutela delle terapie ormonali gratuite per tutte le persone che decidono di iniziare percorsi di transizione. Vogliamo i cattofascisti fuori dall'AIFA, che sia veramente un organo autonomo e che s'andrena il farmaco più sicuro per la terapia ormonale delle persone trans che hanno appena reso a pagamento torni gratuito. Pretendiamo che i centri di cura che tutelano minori non subiscano ispezioni, inchieste e accuse, come è accaduto all'ospedale Careggi ingiustamente, solo perché garantiscono percorsi di transizione a persone minorenni. Pretendiamo percorsi di cura che non discriminino le persone in quanto non rientranti nel binarismo di genere e nella eteronormatività. Pretendiamo la trasformazione e un aggiornamento della formazione personale sanitario che tenga in considerazione tutti i corpi senza discriminazione, per una medicina libera da razzismo, sessismo, grassofobia e transfobia. Soprattutto pretendiamo la libertà di autodeterminarci e che i saperi siano condivisi in maniera orizzontale e non gerarchicamente e con paternalismi. pretendiamo poi l'eliminazione del certificato di idoneità alla detenzione amministrativa. Appoggiamo la rete Mai Più Lager, no CPR, nella loro campagna di boicottaggio. Infine, perché il corteo vuole essere un passo più accessibile, troverete, come detto, però lo ripeto perché è importante, se non riuscite più a camminare troverete il secondo carro su cui vi potete riposare e la zona di compressione a fine corteo per un po' più calma. Infine, noi continuiamo a ripeterlo, ribadiamo, giù le mani dai nostri corpi! Relación perfecta hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, hasta encantada. Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando. Los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Todas las mañanas de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Ay. Ciao a tutti! Siamo qui oggi come rete Mai Più Lager, Noi CPR, assieme alle sorelle di Non Una Di Meno, per denunciare una forma particolare di violenza patriarcale e fascista, quella che colpisce le persone razzializzate, quella che si basa sul presupposto socioculturale della criminalizzazione delle immigrazioni, quella che vede la propria massima espressione nel razzismo istituzionale e nell'esistenza stessa della detenzione amministrativa e dei CPR o centri di permanenza per il rimpatrio. Perché in questa fantomatica Europa dei diritti basta un illecito amministrativo, ossia non avere i documenti in regola, per finire dentro ad un lager di Stato, per finire all'interno di un luogo torturante creato apposta per annichilire chi è rinchiuso al suo interno. Qui vicino a noi, in questa Milano inclusiva, c'è il CPR di Via Corelli. Nonostante il commissariamento, continua a rimanere un luogo dove qualsiasi diritto è sospeso e annullato. Perché noi sappiamo benissimo che un lager di Stato commissariato rimane pur sempre un lager di Stato. Perché sappiamo benissimo che non esiste un caso CPR di Via Corelli. Tutti i CPR sono lager di Stato, tutti i CPR vanno chiusi subito. Perché di CPR si muore. Usman Silla, 22 anni, è stato l'ultimo morto di Stato nel CPR di Ponte Galeria e noi siamo qui oggi per ricordarlo insieme a voi e per ricordare tutti i morti di CPR. Perché nonostante i tentativi di invisibilizzazione, le persone rinchiuse dentro i CPR esistono e resistono e noi con loro. Siamo qui oggi quindi per gridare tutto insieme. non uno in più all'interno di un lager di Stato, non uno in più rinchiuso per un illecito amministrativo, non uno in più giudicato idoneo alla vita all'interno di un lager di Stato, non uno in più picchiato dai manganelli di Stato all'interno dei CPR, non uno in più sottoposto alla tortura dei CPR, non uno in più rimpatriato forzatamente, non uno in più ucciso dal sistema CPR. Siamo qui oggi anche per ricordarvi di unirvi a noi nella mobilitazione cittadina che stiamo organizzando per il 6 aprile pomeriggio. Scendete tutto in piazza come oggi con noi, perché dobbiamo invadere le strade di Milano al grido di mai più lager, no ai CPR. Perché la lotta deve essere intersezionale o non è lotta. E un lager dietro casa è un problema collettivo che riguarda tutta la cittadinanza. Trovate tutte le informazioni sui volantini che abbiamo distribuito e sulle pagine social, Facebook e Instagram della rete Mai Più Lager, Noi CPR. Non uno in più, non una di meno. Grazie. Siamo pronte a partire, a invadere la città di Milano ancora una volta con una marea transfemminista che sappia ricordare che combattiamo la violenza patriarcale in tutte le sue forme, in casa e nel mondo, nelle nostre singole case e in tutte le parti del mondo in cui la violenza patriarcale trova forma. Insieme siamo partite! Insieme torneremo! Non una, non una, non una di meno! Insieme siamo partite! Insieme torneremo! Non una, non una, non una di meno! Transfemminista multidimensionale. Primitiva, futuribile, non binaria, aerodinamica, liquida, pansessuale, passato, futuro, presente, presente, presente. Ah, transfemminista. Morbido. Presenti di lasciare lo spazio, di essere alleati. Chiediamo ai maschi cis lo spazio, chiediamo di essere alleati, chiediamo di farsi da parte a tutti i maschi cis. Grazie, spostatevi, non fate i protagonisti, non venite in piazza per cuccare, non è la vostra giornata. Just five, for now 45, don't get out of line, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, pick a side. Only double lines we cross is dollar signs, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, hold up. Wait, I hear you just got paid, making rain, energy. Shima Cancun, he more Central Pay. Be waving around, the crowd gon' move. Look around, everybody on mute. Look around, it's me and my crew. Big energy. We was on stop mode, got phones, phones from page book, no pause, chat to me. Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce. Altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce. Angeli mi seguono nell'oscurità. Angeli ribelli della mia città. Angeli mi seguono. Prego nei re di Teheran. Angeli ribelli. Sottoterra si balla. Guarda, mi trasformo. Spezzo le catene. Cambio la pelle. Ninfa aliena. Guarda, mi trasformo. Spezzo le catene. Cambio la pelle. Ninfa aliena. Angeli. Angeli che vestono come passanti. Vedi, mi trasformo anche senza te. Angeli. Scappata dal cielo, non ho più rimpianti. Dalle trecce le radici di una nuova me. Angeli mi seguono nell'oscurità. Prego nei re di Teheran. Angeli ribelli della mia città, sottoterra si balla. Guarda, mi trasformo, spezzo le catene, cambio la pelle, ninfa aliena. Guarda, mi trasformo, spezzo le catene, cambio la pelle, ninfa aliena. Guarda, mi trasformo, guarda, mi trasformo, guarda, mi trasformo, guarda, mi trasformo. A un cantiere, uno dei tanti cantieri aperti in questa città, in particolare il palazzo di ultralusso in costruzione, in ristrutturazione, qua sulla sinistra del corteo, è di proprietà di AM Holdings SPA, uno di quei tanti, troppi fondi immobiliari che speculano sulle case, sui palazzi, sugli edifici della nostra città. Questi fondi immobiliari stanno rendendo la vita in questa metropoli impossibile e insostenibile. Questo palazzo era rimasto vuoto per oltre 4 anni. Nessuno sapeva cosa farci. Che in città ci siano decine di migliaia di persone senza una casa, che fanno fatica a pagare un affitto, che fanno fatica a pagare un mutuo, che fanno fatica a pagare le bollette. Non è fregato assolutamente niente a nessuno e questo palazzo è andato all'ennesimo fondo immobiliare per la sua bella speculazione. Se guardate il loro sito vedrete che il progetto punta a un solito. Qua c'è un boschetto addirittura, in mezzo nel cortile, un po' come il bosco verticale, e tutte queste bellissime idee per far vivere degli ultralussi, nell'ultralusso, miliardari che passano dalla nostra città per fare affari, magari nel prossimo grande evento. A Milano ci sono più week e settimane, a Milano ci sono quasi più appartamenti su Airbnb che per qualunque persona, famiglia, voglia pagare un affitto. Ci sono troppe persone senza casa e troppe case senza persone. La violenza economica è una delle principali forme di violenza. Provate voi a lasciare un marito abusante, per esempio, o dei genitori abusanti, se non avete i soldi per pagare un altro affitto, se magari siete una di quelle, una donna su tre che in Italia non ha un conto corrente intestato, magari siete una di quelle che ha subito mobbing al lavoro perché il lavoro di cura è ancora tutto sulle sue spalle, magari volete proprio lasciarli quei genitori che vi fanno pressione, che vi opprimono, magari siete voi che volete lasciare dei genitori che non accettano. Chi siete? Chi amate? Come volete vivere? Magari siete voi che volete lasciare una relazione violenta, e però no, un'altra casa non si può pagare. Noi vogliamo che tutti questi palazzi di ultralusso in mano a fondi immobiliari speculativi siano requisiti immediatamente e siano messi a disposizione delle persone senza casa, delle donne che devono lasciare le situazioni violente a servizio dei percorsi di fuoriuscita e di autodeterminazione delle donne, delle lesbiche, delle persone trans, delle froce che siamo tutte. E allora noi vogliamo il diritto alla casa, perché vogliamo il diritto a essere vive e vogliamo essere libere. Casa per tutte, miseria per nessuno. Casa per tutte, miseria per nessuno. Casa per tutte. Questa mattina, l'8 marzo, è iniziato alle 6 con una colazione resistente nel cortile dello spazio di mutuo soccorso. Una di quelle tante case liberate alle speculazioni di questa città. Lo spazio di mutuo soccorso è sotto attacco ed è una casa dove tante persone hanno trovato rifugio dalla violenza economica e dalla violenza di genere. Lo spazio di mutuo soccorso siamo tutte. Lunga vita SMS, lo difendiamo come difendiamo tutti gli spazi più sicuri di questa città. That's one. Like yo fam alam, yo fam, yo fam alam. And no girl better than I'm on the roads, caravan. Let me do this fast, Ramadan. Cause it's going down, avalanche. I'ma keep it short, paragraph. Queen Leash, I'ma reign, Anorak. Take it off Israel, Nazareth. Oh Jesus, oh Lord, oh Jesus. A couple of snaky friends, just Adam and Eve does. And there's no debate on who's better. Come on. I turn a man to a girl like Bruce Jenner. I shout down the dance like brrr. Me rock down the dance like brrr. I be the one they love, yeah. I be the don. Mm. They know where I'm from, yeah. Oh, 01 to the 21, yeah. Yo brethren, where is your hairline gone? I can't believe it, I can't believe the cheek. Some girls wake up and don't even brush their teeth. That's a dead thing. A bad breath thing. Morning, man. How could you talk my name and you ain't even brushed your teeth? Never brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Never brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Bars cold like a TikTok. You've got a pot belly like Rick Ross. Stiff gal, do the TikTok. Big mouth gal, where your lips gone? Where? I ain't got time to be TikTok. But I got a new wristwatch. Let's go toe to toe, flip flops. I make the crowd jump like crisscross. Jump. I got a dark skin friend that looks like Rachel Dozel. Mm-hmm. And I got a light skin friend that looks like Rachel Dozel. Mm-hmm. Which one's which? Not sure. Nah. Them girls are clapped, encore. Don't think you're buff cause you're wearing contour. Cause I'll wipe your brows off. Yeah. I'll snatch your wig and your nails off. Bye, I go blind, hands out. Like a them at the no shop. Look, these girls are bluffing. They really ain't on nothing. You can't do dirt on me. Are you gonna go and get your cousin? What? Everything in rosy, I beg you not. I clean the teeth through and set it off. Yeah. Then I bounce like a belly flop. Got one eye on your man. Fetty what? Yeah, baby. I'm getting watched. Watch me like Netflix. You go to the club, but you ain't got dough for your gas and electric. Let it. I can't believe it. I can't believe the cheek. Some man wake up and don't even brush their teeth. How could you do that? How could you even speak? How could you talk my name when you ain't even brushed your teeth? Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Never brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Queen speech for you now. Brush your teeth. Side for the way. Brush your teeth. Bangangangang. Ciao! Il nostro obiettivo è l'uguaglianza. Noi siamo il Comitato Giovani Sordi di Milano. Organizziamo eventi, organizziamo seminari, garantiamo accessibilità. Vedete questo corteo? Ha l'interprete LIS ed è la prima volta nella storia. Non è mai successo prima. Grazie alle interpreti volontarie. Noi siamo una minoranza. Tutti ci conosciamo fra noi, quindi se qualcuna di noi subisce violenza non può sfogarsi. Tutte le direbbero: ma no, non ti preoccupare, la conosco quella persona. E quindi tendiamo a non dire, rimaniamo sempre in uno stato di frustrazione, una frustrazione doppia. Inoltre manca accessibilità. Manca accessibilità e anche supporto per noi. Do la parola a un altro gruppo. Noi siamo le femministe sorde e siamo qui presenti. Noi siamo qui per dire basta a dirci sordo mute, noi siamo sorde e noi segniamo, la legge lo dice chiaramente, non siamo più sordo muti, siamo sordi. C'è discriminazione, c'è una discriminazione doppia per noi donne sorde, tripla, quadrupla, noi siamo sempre discriminate. C'è tanta violenza, tanta, tantissima, c'è qualche servizio di accessibilità, ma è pari a zero, è il nostro diritto averlo. Vi faccio un altro esempio, al consultorio ginecologico noi non abbiamo le stesse informazioni che avete voi. Dove sono i nostri diritti? Ci avete tolto i nostri diritti. Nelle scuole c'è l'educazione sessuale, non è completa, da qualche parte manca, ancora qui in Italia, e noi non abbiamo l'interprete a scuola. Ancora una volta siamo senza informazioni, noi donne sorde non abbiamo tutte le informazioni che arrivano a voi. Non vedo niente. Contro il sistema patriarcale, noi donne sorde chiediamo questo diritto. Town. nigga, you know what's up or don't you? Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one, two. Fuck a gun, do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do want to fuck. Fuck them like you do want to come. You gated because it's covered. I'm a 2-1 deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might flick it. Wonder who let you come to 1-2. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were 2-1s. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the 1-2 day. I'm the new ship, the young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. Won't get a match, you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat poom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you, bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you want to do when I am there? Cultura dello stupro è la simmetria di potere in cui affonda i suoi pilastri la violenza di genere. Pilastri che tutto noi miniamo ogni giorno e che faremo saltare. La cultura dello stupro è quella della società che dice a noi di non bere, di non indossare minigonne, di non drogarci e di non uscire tardi. E noi sappiamo che non sono i vestiti, non è l'alcol, non sono le 2 di notte, ma sono questi uomini a stuprarci e a ucciderci. E a non accettare che no vuol dire no. Stupro e violenza non hanno nulla a che vedere con il sesso, sono puramente esercizi di potere. E dietro ogni uomo che agisce violenza c'è la convinzione di poterlo fare, perché è legittimato da uno Stato e una società che considera le donne e tutte le altre soggettività inferiori. Dove l'uomo è la borghesia, noi siamo il proletariato del mondo. Un governo che odia le donne e le soggettività LGBTQIA+, non può che generare una popolazione maschile che ci odia, come personificato da Piantedosi, Roccella, Valditara. Per loro dovremmo accettare il mandato di genere, non fare transizioni, non abortire, accettare le violenze in silenzio, così come la vittimizzazione secondaria nei tribunali e sui giornali. L'esposizione mediatica della violenza, con i dettagli più brutali e morbosi, mettono le donne e le soggettività LGBTQIA+ alla mercé di chiunque di quella violenza legga, narri o giudichi, riproducendone le ferite. Ci vogliono spaventate e irreggimentate, e invece ci avranno rivoltose e in lotta. Come collettiva Ambrosia abbiamo riempito la città con adesivi che rimandano i nostri video e la nostra lotta contro la cultura dello stupro. Lottiamo insieme per costruire città transfemministe, per realizzare uno stato di welfare, per il diritto diritto all'abitare per un reddito di autodeterminazione universale, di base e inclusivo, per scuole, sanità pubbliche finanziate, consultori in ogni quartiere, personale medico ed educazione sessuale non eteronormata al consenso e al piacere nelle scuole. Vogliamo fondi per le case rifugio e i centri antiviolenza, laici e femministi. Ci servono città attraversabili senza barriere abiliste. Vogliamo la Chiesa fuori dalla politica di Stato e dalla sanità. Vogliamo essere libere, non coraggiose. Vogliamo attraversare le strade a tutte le ore del giorno e della notte. Non solo queste città le vogliamo, le esigiamo ora! Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. She wakes up early every morning just to do her hair now, because she cares, y'all. Her day I wouldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money, la la dee. Ci fermiamo ancora di più. passando in questa piazza che una volta si chiamava Piazza Fiume, a ricordare che la guerra è la forma più alta di violenza patriarcale e che se le nostre vite non valgono, noi smettiamo di riprodurre questa società. Una nota di servizio a lato: la lotta paga ma costa. Per autofinanziamento su questo camion si vendono birre. So che fa freddo, nel caso oltre al fuoco della militanza voglia scaldarvi un fuoco delle birre, venite qua. Every time we turn on the screen, somebody gets screwed. Yeah. Pulling at the hammer, nail our head like it is loose. They hit the black goose. Yeah. What is in the news? Yeah. What's up, bulletproof? 'Cause if we loot and they will shoot. Hey, officer, don't shoot. I got so much to do. How to get back to my family? Just when this is over, do. Hey, officer, don't shoot. I got so much to do. Gotta get back to my family. Just when this is over, do. Don't you bring us down. I just really wanna live, yeah. I just really wanna breathe, yeah. I just really wanna live, yeah. I just really wanna. They will try to bring us down. No, no. They will try to bring us down. Oh no. I don't care what they say. I don't care what they say. We will find a way by any means that's necessary. We keep on sweating red just to pay the blue. No protection. We get beaten black. So much to do. Gotta get back to my family, 'cause rent is overdue. Hey, officer, don't shoot. I got so much to do. Gotta get back to my family, 'cause rent is overdue. Down, down, down, down, down. Rise up.